sette occhiali scuri ce ne andiamo sotto i salici inconcludenti di un tramonto stile hollywoodiano. Via delle comiche finali, incrocio viale degli orrori, ed è una vaga tristezza quella che ci prende dentro e fuori. Io e Rino in evidente stato confusionale ci muoviamo voluminosi in uno spazio bidimensionale, vittime di un complotto finanziato dalla notte oscura, con la banda dei cuori infranti che ci fa premura. È una birra di qua, è una birra di là, e la sera se ne va, e pensiamo di noi che sarà. Se la gente di qui si avvilisce così e ci tratta da ragazzi, è perché la TV non guarda il film su New York City. Marmotte dell'alienazione, ci spostiamo in automobili carrozzate di associazione, abili venditori di brutture cittadine, a chiunque ci chieda consulenze malandrine. Io e Rino, grandi imprese, amori fallimentari, assi del mordi e fuggi in circostanze particolari, persi nella metropoli, effetto notte americana, ammassiamo la solitudine affascinati dal panorama. È una birra di qua, è una birra di là, e la sera se ne va, e pensiamo di noi che sarà. Se la gente di qui si avvilisce così e ci tratta da ragazzini, è perché la TV non guarda più su Your City. È una birra di qua, è una birra di là, e la sera se ne va, e pensiamo di noi che sarà. Se la gente di qui si avvilisce così e ci tratta da ragazzini,